Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che tu lo sai, come va, poteva malamente. Si parte da perdere. Tutto quanto dice che la colpa è tua, perché sfascia tutte cose. Si vince invece. E significa che ritorna papà. Per cui c'è cosa. Tira una sola possibilità, Gennà. La possibilità tua sono io. O tempo è poca. Questa cosa ti sta mangiando a Inter. Come nuvolina. Ti sta consumando. Grazie stesso, Ciro. Gennà, siccome a me. Dialogo serrato tra Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano, Jenny e Ciro, amici, compagni di scorribande sin da bambini, l'uno ha insegnato all'altro per la prima volta per una macchina, hanno fatto insieme rapine, omicidi, poi le strade sono separate, Jenny è il figlio del grande capo Savastano, Don Pietro Savastano, che al tempo era in carcere, quindi ha un'eredità pesante dalle spalle, sulle spalle Ciro, in realtà il vero antieroe, perché piace a tutti, è figo, in fondo è un guerriero perfido, cattivo, uno che strangola la moglie, che non ha nessun scrupolo di ammazzare, torturare, uccidere, ma anche l'altro non è da meno, l'abbiamo visto far uccidere a colpi di macete a una guardia il suo sottoposto e riprenderlo col telefonino. Beh, si parlano. Ciro aveva tentato di ammazzare qualche puntata fa Jenny, è stato fra vita e morte per tantissimo tempo, poi Jenny ha ripreso Ciro, poteva ucciderlo a sua volta, ma fanno un accordo perché sono molto laici loro, il cuore è da parte, l'importante sono gli affari, devono essere sempre i primi. Beh, si rivedono in questa penultima puntata, ieri è terminata la seconda serie di Gomorra, e si parlano fra di loro, in fondo con tutto quello che è passato tra di loro, hanno tentato a vicenda di ammazzarsi non so quante volte, di mezzo sono stati morti di tutti i tipi, familiari, consanguinei, in quest'ultima puntata anche qualcosa di molto vicino a Ciro. Beh, nonostante questo ancora fanno patti tra loro. Perché? Perché nella malavita organizzata non esiste il cuore, esiste soltanto il senso del denaro. Tanto denaro per fare cosa? Hanno delle case fantastiche, bellissime, pacchiane ma ricoperte d'oro, con statue classiche, colonne, specchi, quadri. A casa di Jenny sposata addirittura c'è una gigantografia del dollaro incorniciato, il simbolo del potere. Fuori uno schifo, un immondezzaio, è una delle periferie più degradate che possano esistere in Italia. Sono re delle loro gusci chiusi dentro, sono pieni di soldi, ma ognuno sa che ogni momento della sua vita qualcuno a lui molto vicino lo può ammazzare, quindi rischiano la loro vita. Beh, oggi parleremo dell'ultima puntata di Gomorra, andata in onda ieri. Chi teme degli spoiler non ascolti, che devo dirvi, parliamo della puntata, tanto che era talmente nell'immaginario la fine di questa puntata, qualcuno aveva già messo su YouTube come andava a finire la scena clou, la scena finale era già su YouTube prima ancora che fosse trasmessa in televisione, qualcuno con lo smartphone aveva preso mentre la troupe stava girando l'ultima sequenza. 800240024. Oggi riparliamo di Gomorra. Melog. Cronache meridiane. Ma che cosa? A quello che è successo a mio padre, Gennaro. Quelli che sapevano del freddo Natale si contano sulle punte delle dita. Tu eri con me quando ne stavano parlando. E quindi? Sei stata tu. Tuo padre mi era offerto un'alleanza e io fossi stata sempre socio minoritario. E a me questa cosa non mi piaceva, Azù. Noi non siamo nati per essere numero due, Azù. Ehi, io e te amo essere i protagonisti del futuro nostro. Solo noi. Anche qua, visto che oggi vogliamo fare un raffronto fra ciò che questa fiction racconta della realtà e la racconta, come abbiamo già detto l'altra volta, in maniera molto esplicita, molto cruda, molte volte basandosi addirittura sugli atti processuali delle persone implicate in fatti di camorra, altre volte seguono la fantasia. Io, come ho già fatto in passato, mi farò supportare da persone che conoscono bene la Camorra dal punto di vista storico, che hanno visto senz'altro questa fiction, e con loro cerchiamo di capire innanzitutto cosa c'è di vero e poi cerchiamo di capire quella che sarà stata l'influenza, l'effetto che ha avuto sugli ascoltatori. Qualcuno ha pubblicato ieri un video su YouTube di alcuni bambini in un quartiere di Napoli che giocavano a Gomorra. Esattamente gli stessi gesti, facevano un agguato con le pistole nascoste dietro la schiena, quelli che erano vittime dell'agguato si buttavano per terra, morivano, poi fuggivano, avevano lo stesso modo di parlare, di imprecare, di imporsi sugli altri. E voi direte che c'è di scandaloso. Anch'io ho giocato a Pelle Rossa e Cowboy per tutta la vita, perché i film erano quelli, almeno finché ero bambino, facevo le stesse cose, legavo gli amichetti al palo della tortura, gli sparavo, loro mi tiravano il lazzo, mi prendevano e via dicendo. Però quella era una realtà lontana, una realtà romanzesca, una realtà che noi non avevamo vissuto e non stavamo vivendo. La Camorra c'è lateralmente, come se fosse una dimensione parallela alla vita di quei bambini, di quei ragazzini. Vogliamo che la fiction sia anche educativa, sia didattica, faccia del bene, o ci accontentiamo, anzi ci piace che ci racconti realisticamente quello che accade? 800 24 00 24. Simone Di Meo, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Simone Di Meo è stato già ospite della nostra precedente puntata per l'esordio di Gomorra, è un giornalista, uno scrittore, ha scritto vari libri sulla Camorra, ne cito uno, L'impero della Camorra, la storia vera e violenta dell'ascesa al potere del boss dei boss, Newton Compton 2014, e anche Faida di Camorra, Newton Compton 2009, immagino che altri ne starà scrivendo. Ti faccio una domanda subito, per un profano come me che poco ne sa di storia di Camorra, sembra qualcosa di stridente il fatto che Jenny il giorno del suo matrimonio faccia l'infamata e faccia arrestare dalla polizia il suocero, per un motivo poi molto semplice, ostacolava il suo essere primo numero uno. La moglie capisce, lo dice, la moglie incinta fra l'altro mentre gli dice questa cosa, ma sembra piuttosto normale. Non è nei codici di questo tipo di Camorra il fatto che comunque sia fare gli infami o rivolgersi alla polizia è un atto deprecabile, o invece è ammesso? No, ma è assolutamente improponibile la ricostruzione non solo storica, di sceneggiatura, ma anche psicologica di questo tradimento e di quello poi plateale che si conclude con l'uccisione di Don Pietro Savastano. Sono esigenze narrative che non hanno corrispondenza negli atti processuali, nella storia giudiziaria, così come noi la conosciamo dai verbali dei collaboratori di giustizia e dalle inchieste antimafia. Quindi c'è stata una deriva tra prima e seconda serie. Ti ricordo, noi avevamo detto all'inizio della serie che, perlomeno guardando la prima serie, c'era un estremo realismo, un attenersi agli atti. Questa volta invece sono andati di fantasia. Ma sì, è come se noi stessimo parlando del Trono di Spade ambientato a Scampia, o se stessimo, diciamo, discutendo se Polifemo, visto nella fiction dell'Odissea, esiste e se le sirene sono belle o brutte. Siamo veramente ragionando attorno a un prodotto di fantasia, almeno per come si è manifestato nelle ultime due puntate, che ha degli spruzzi, delle venature di realismo, o meglio neorealismo, ma che tutto sommato poi fanno pendere il piatto della bilancia verso un'opera di immaginazione. Ecco, secondo te perché c'è stata questa scelta? Per timore che qualcuno potesse accusarli di fare un'apologia della Camorra? A un certo punto ha fatto qualcosa, non è più Camorra, come hai detto te, e mi piace il termine, come fai il Trono di Spade, sono gente che si spara addosso, casualmente parlano un napoletano stretto, ma non c'entrano nulla con i reali protagonisti. Perché hanno fatto questa scelta, secondo te, tuo punto di vista? Ma credo che sia dovuto più a un'esigenza di copione, per allungare ad libitum le possibilità della trama di avere una conseguenzialità, di avere un futuro. D'altronde la stessa Faida di Scampia, che è quella poi a cui si riferisce prima Saviano nel libro e successivamente Garrone nel film, e le due serie, ha avuto sì un'intensità ferocissima con oltre 70 morti in 6 mesi, ma poi si è conclusa. Non ci sono tutte queste vicissitudini, tutti questi strascichi che portano una battaglia criminale, seppur campale, a sopravvivere a se stessa per lunghi anni. Immagino che con, diciamo, l'epilogo di ieri, Gomorra può tranquillamente campare altre 10 serie. Eh sì, perché c'è la successione. Vediamo, sarà interessante con te a questo punto. L'altra volta abbiamo visto le similitudini, questa volta vediamo gli aspetti fantasiosi. Sentiamo intanto l'ascoltatore Sergio. Sergio, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno anche a Simone Di Leo. Spegni la radio però, Sergio. Sì, io ho visto la fiction anche a mio figlio, 20 anni. Io posso dire che mi ha lasciato tristezza, in senso che ho capito, e anche il ragazzo ha capito, che non vale la pena, diciamo, spingersi anche mentalmente, anche psicologicamente a certe cose, perché la fiction, diciamo, mi rattrista, è un susseguirsi di latitanza, non ridono mai, non si godono niente, non si godono neanche i soldi facili che hanno. E questa è una cosa che dici giustamente, Sergio. È un bel messaggio, mi rattrista molto. Cioè vivono sempre con la paura, e qualcuno a loro molto vicino, che può essere anche un padre, un figlio, un fratello, li posso uccidere perché limiti la loro possibilità di espansione. L'unico momento ludico è quando Chanel canta la canzone napoletana usando un vibratore d'oro al posto del microfono. È l'unica nota che, infatti, la gente è scandalizzata. La cantante protagonista della canzone dice: come ha offeso la mia canzone? Invece una nota divertente, tutto sommato. Tira fuori dallo stipetto questa capa di un quartiere, di una piazza di droga, sola, vedova, con un figlio cretino totalmente, non all'altezza di lei, canta questa canzone d'amore napoletana, e al posto del microfono tira fuori un vibratore sofisticatissimo d'oro massiccio. Ecco, questa è la botta di vita. Dico, ma vale la pena averci gli armadi pieni di soldi se questo è il massimo che ti puoi permettere? Sergio. Non ricordano niente, è un bel messaggio, mi rattrista molto. Comunque, di solito le fiction, romanzo criminale o Gomorra, io capisco che è un prodotto che tira cinematograficamente, però voglio dire, ci sono anche cose da offrire ai ragazzi, per esempio l'arte. Purtroppo vediamo sempre lo stesso panettone in televisione. Sì, vabbè, non è lo stesso panettone. Sono, no. Vabbè, queste sono altre tematiche. Comunque, senti, io devo dire il mio punto di vista, sennò la trovo fatta benissimo. Gli attori sono di prim'ordine, sono interpreti eccezionali. È girata come raramente vengono girate le fiction in Italia. Detto questo, entriamo in merito poi al contenuto. Giovanni è caduto. Allora, torniamo a parlare con Simone Di Meo. Questo che sottolinea l'ascoltatore, uno degli esempi e uno degli dei sensi profondi che maggiormente dovrebbe far riflettere. Esiste veramente in questi ambienti questo senso di ossessione per il potere, e che in realtà tutto quello che si guadagnano non fanno nemmeno in tempo a goderselo, perché è una vita di fughe continue e di latitanze continue, di nascondimenti continui e di guardarsi continuamente le spalle? Certamente l'ossessione più che per il potere, per il denaro da cui discende il potere e l'esercizio del potere sul territorio, sono la cifra distintiva di questa nuova generazione di camorristi che viene perfettamente ritratta, almeno a grandi linee, in Gomorra. Su questo non c'è dubbio. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno, abbiamo recuperato. Sì, buongiorno. Buongiorno. Giovanni, sente? Sì, ti sento, dimmi. Niente, io volevo dire questo. Io ho fatto un lavoro, credo che sia il lavoro più bello del mondo. Ho fatto il poliziotto per 36 anni, di cui 25 anni dedicati al sottocopertura, e personalmente ho vissuto 4 mesi come infiltrato nel rione sanità, quindi nella camorra vera e propria. Ora, sono rimasto, la fiction è una bella fiction, però è anche un'offesa nei confronti delle forze dell'ordine, perché comunque non è come la si vede in televisione, perché non è così. Io l'ho vissuto. Allora, Giovanni, guarda, prendi un attimo fiato. Siccome è importante, tu hai fatto, hai lavorato sotto copertura per 4 mesi proprio nel set. Allora, fermati un attimo. Mandiamo le informazioni della borsa. Mi interessa capire, perché tu sei tra le persone che può dirci meglio, proprio dall'interno, quali sono i punti di connessione e di realismo in questa fiction e quelli che in realtà trovi di pura fantasia. È vero, sì, le forze dell'ordine non appaiono quasi mai, sempre passivamente, non fanno mai un'operazione, un'azione. Intervengono, arrestano qualcuno quando c'è un'infamata, quando qualcuno denuncia qualcun altro, sennò sembra che non sappiano far nulla. Tu ci dirai se dalla tua esperienza è realmente così, o in realtà sei voluto tratteggiare soltanto l'atomo opaco del male senza che ci fosse speranza. Tra un istante. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Il 19 giugno, dalle 23, non perdere lo speciale ballottaggi delle elezioni amministrative 2016, con le voci dei protagonisti e gli approfondimenti dei nostri inviati, per seguire in tempo reale l'andamento degli scrutini. E lunedì 20 giugno, appuntamento nei giornali radio per l'aggiornamento in diretta dei risultati. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Melog. Cronache meridiane. Bambi, ma il compito mi è finito. Non te ne dici bisogno, l'ambasciatore. Ma non è vero che ne è cagnato niente. Sembra. E invece è cagnato tutto questo. E non siamo ancora arrivati alla fine. Che volete dire con questo? Che tengo ancora bisogno dei padri. Per fare che? Non è affannuto ancora. Non bene. Io non sono un soldato. Sta casa è grossa. Mi fa piacere si rimane qua. 800240024, stiamo parlando della seconda serie di Gomorra, della fiction trasmessa da Sky Atlantic, di grande successo e di grande rilievo, che però presenta alcuni aspetti degni di essere discussi. Quanto questa fiction è realistica, molti hanno detto è talmente realistica che la gente non farà più differenza fra quella che è la realtà e quella che è la finzione, altri hanno detto in realtà è un'istigatrice di cattivi istinti, trasforma in eroi quelli che in realtà sono solo delinquenti. Ma non, al di là di ogni pregiudiziale, non pensiamo che televisione debba avere lo scopo di educare le masse. La televisione deve fare dei prodotti che piacciono, dei prodotti che facciano discutere. Questo senz'altro è un prodotto fatto bene e fa discutere, ne stiamo discutendo. Stiamo parlando con l'ascoltatore Giovanni, devo fare una nota, a me mi dispiace, capisco e apprendo soltanto ora che da una settimana gli ascoltatori che parlano non sentono le voci degli altri ascoltatori. Questo a me crea un grande problema. Questa è una trasmissione basata sul feedback, sull'interconnessione, sulla condivisione fra gli ascoltatori, come se mi dicessero vai in bicicletta ma non c'hai i pedali. Provo a fare come posso, ma prego chi ha possibilità di intervenire tecnicamente, datemi uno strumento che possa decentemente fare il mio programma, come ho stabilito nel mio editore di dover fare, perché così non posso andare avanti. Non è possibile che una trasmissione a intervento del pubblico per un problema tecnico, di cui non mi è stata data ancora spiegazione, non possa permettere agli ascoltatori di interagire tra di loro. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Continuiamo. Intanto io vi ascolto da tantissimo tempo e sono felice che ci sia una trasmissione vera, ecco, questo è positivo. Se vi sentiste fra di voi la farei molto più facilmente. Comunque proviamo a dire, Giovanni, ricostruirò io per gli altri ascoltatori quello che ha detto. Lei ha detto, ha lavorato sotto copertura. Allora, io ho fatto, sì, mi scusi, io ho fatto, sono un po', diciamo, un po' infastidito, perché sembra che le forze dell'ordine, cioè lo Stato non sia presente, mentre invece lo Stato è presente e le posso garantire che usa qualsiasi norma, chiaramente nella legge, non fare i banditi, come si dice. Però noi, lo Stato è sempre stato presente ed è sempre presente. Allora io ho avuto l'esperienza di fare 4-5 mesi sotto copertura in Rione Sanità. E cosa doveva fare lei? Esattamente cosa doveva fare? Io sono stato infiltrato in una banda del Rione Sanità e dovevo comprare la droga, perché loro vendono droga e qualsiasi. Ma lei per cosa si spacciava? Per cosa spacciava? Per un corriere? Io ero un fuggitivo da un blitz avvenuto in Alta Italia. Ma lei come faceva a essere? Ah, apposta, perché lei ha un accento nordico, mi domandavo. Io parlo diverse lingue, sa, diciamo che ho delle qualità nascoste. Quindi però, lei riesce a sembrare un quattone napoletano? Io posso, no, io riesco a sembrare una persona che compra droga, punto. Questo è. Vabbè, questo è il suo mestiere, lo saprà fare sicuramente. Il mio mestiere è questo. Allora, io ho conosciuto dei boss della sanità molto forti, diciamo anche. Però diciamo che l'unica cosa che interessa al boss è quello di avere un forte potere di essere presente nella zona e fare soldi, basta. Cioè, tutte queste scene, diciamo queste scene che fanno vedere, per carità, il film, ma non esiste che il boss gira scortato, che gira con macchine pubblicitarie, Mercedes. No, non è così, non è così. La realtà è ben diversa. La realtà è che vogliono solo, esclusivamente, avere stupefacente, vendere stupefacente e essere al centro dell'attenzione nel loro quartiere. Dei piccoli re nel loro quartiere. Allora sentiamo un attimo il nostro ospite Simone Limeo. Ricordo che un giornalista, uno scrittore, ha scritto molti libri sulla camorra. Ha chiamato un ascoltatore che è stato poliziotto sotto copertura per vari tempi nel rione Sanità e dice che in realtà si esagera troppo sull'aspetto, diciamo, fantasmagorico di questi boss. In realtà, dice, sono soltanto dei poveretti che fanno una vita schifosa, così la prova a riassumere, e il loro unico scopo è acquistare droga, rivendere droga e guadagnare soldi. La meccanica esistenziale è questa, però è chiaro che da questa compravendita di droga arrivano fiumi di denaro che rendono molto meno povera e, diciamo, censurabile dal punto di vista economico questa vita, perché a leggere gli atti giudiziari ci sono delle vicende assolutamente incredibili che riguardano le manie di grandezza dei camorristi. Quindi in realtà è vero questo, ma è vero anche il contrario. Cioè, diciamo, l'arredamento delle case, quello almeno era congruo alla realtà. Queste case sembravano, che ne so, delle chiese barocche all'interno. Ma certo, assolutamente. Poi dire, ci sono degli episodi come quello di Paolo Di Lauro, che durante una partita in una bisca clandestina si fa portare da casa un borsone con 2 miliardi di lire e rilancia a una mano di poker con un suo avversario. Sono episodi che sono stati raccontati. Questo lo fa Chanel in una delle prime puntate, che gli dice quello che stava l'era, cioè il vizio del gioco. Gli dice: guarda, qua i soldi vanno messi sul tavolo. Lo guarda, chiama il suo scagnozzo, apre un borsone e glieli butta tutti sul tavolo e vince anche la mano, fra l'altro, perché vorrei vedere se qualcuno poi la facesse perdere. Sentiamo un attimo Cesare, buongiorno. Cesare, buongiorno. Sì. Buongiorno, chiamo proprio da Gomorra. Io abito a Casavasore e più volte citate ho anche la fiction, e le posso assicurare, per vita vissuta, come dire, la realtà, che la fiction è un minimo rispetto alla realtà. Ecco, vediamo gli aspetti più vicini alla realtà che lei, allora, conosce. Innanzitutto non è la gente che copia la fiction, ma è il contrario, cioè gli sceneggiatori, il regista, la produzione, prima di iniziare un tipo di fiction del genere, sono stati sul territorio e non a caso hanno convocato persone solo del territorio per recitare diversi mesi. Di conseguenza tutto quello che vediamo è la trasposizione della realtà ridotta, perché se veramente avessero voluto far vedere quello che è la realtà, quella odierna che si vive in questo triangolo. Sì, ma andiamo a esempi concreti, mi scusi, perché sennò mi dica una cosa che ha visto nella fiction, dice: guarda, proprio uguale a quello che io vedo tutti i giorni. Un esempio. Allora, è uguale a quello che si vede tutti i giorni, persone armate nella zona delle vele. Lì si vedono per strada con le armi. Assolutamente sì, le vedette della droga. Le vedette sui tetti delle vele, quelle ci sono. Se tu provi a girare con l'auto, come sto facendo io in questo momento, più di 3 volte sullo stesso palazzo, intorno allo stesso palazzo, vieni avvicinato e ti chiedono dove devi andare, perché devi andare, tu devi rispondere bene, non dire la sciocchezza, piuttosto devi dire: mi sono perso e me ne sto andando. Cioè non è un gioco, non è una fiction, è la realtà. Che poi ci siano delle persone che si scandalizzano a questo tipo di messaggi è perché convivono in quella zona e devono accettare quel tipo di vita. Ma non c'è niente. Un'altra cosa, Cesare, mi interessava il modo di vestirsi, di atteggiarsi, di andare in giro, di portare le donne, è corrispondente? Nicolini, io faccio il musicista di piano bar. Domenica scorsa sono stato a una comunione in zona Parete, provincia di Caserta. Ho dei filmati sul telefonino che ho mandato poi dai miei amici, dei parenti. Sembrava di essere sul set. Il matrimonio di Jenny sembrava uguale. Identico, non c'erano meno di 3 tatuaggi a persona, non c'è, su 7 bambini, 4 avevano la testa come Jenny Savastano ed erano persone tranquillissime, nel senso che erano persone che lavorano, persone per bene, gente per bene, però abitano in quella zona, nella zona di Scampia, 166 secondi Chiano, e vestono così. Attenzione, non sono persone di camorra, sono persone per bene. Sì, però esiste, esiste un... ma vestono così, okay. Vestono in quel modo, o usano quel telefonino, o usano quel linguaggio, ascoltano quelle canzoni, quella che ascolta Chanel col vibratore, col suo vibratore, è di una cantante strafamosissima nel mondo neomelodico, ovviamente. Se arriva a Gaeta, nessuno la conosce. Come si chiama? Come si chiama? Cinzia Oscar. Perché si è lamentata, dice, come la mia canzone col vibratore? Si è lamentata perché non ha preso soldi alla produzione, cosa che hanno fatto gli altri cantanti. Perché ha rinunciato al compenso, solo per questo. E ma perché aveva rinunciato? Perché ha rinunciato? Quella signora, se arriva a Gaeta, non la conosce nessuno. No, spiegami un attimo, mi interessa. Perché ha rinunciato al compenso, secondo te? Questo non lo so. Ha dichiarato lei che, a differenza degli altri cantanti come Tommy Riccio piuttosto che Franco Ricciardi, che si ascoltano altre canzoni nella fiction, lei ha rinunciato al compenso perché credeva che fosse una sciocchezza piuttosto che... E però si è beccata al vibratore, quindi si è offesa poi. Si è arrabbiata perché anche le parole che si ascoltano sotto la canzone sono praticamente una trasposizione della canzone La bambola di Patti Pravo. La bambola diceva non voglio essere la tua bambola, invece la canzone dice la stessa cosa, solo che è napoletano. Grazie, è stato fondamentale il tuo contributo. Ci fermiamo solo un istante e riprendiamo fra un minuto. Melog, cronache meridiane. Allora, e ci sarà una creatura? E che se è una cosa che nessuno ti fa passare? A me ma ci sa Imma, che era tutta la vita mia. Tu muoia torna a giornare. O posso dove staccare? E quando è successo sto bordello e la roba te l'ha fatta arrivare? Mannaggia vista neura. Ma che cazzo stai dicendo? Ta già papà? Tu muoia dagli amici nostri l'Honduras a cattare roba per molto a me. Amici nostri? Se da casa mi sta un'altra parte. E io la roba che ti faccio arrivare voglio essere papata. Basta perdere sta stronza di Roma. La roba nostra l'hanno sempre venuta qua. E se io buono so bene una piglia qua. Tu non vuoi capire che cosa sono cagnata? Non è cagnata una cazzo. Tu sei figlio di Pietro Savastano. Niente da fuori a questo. Questo è un dialogo fondamentale tra Jenny Savastano e Pietro Savastano. Si scontrano due visioni della vita, una molto localistica, legata al quartiere, legata al controllo della zona. Secondigliano è roba mia, qua si vende, qua si compra. Jenny che va in Honduras, va e viene, ha contatti con i narcotrafficanti, si è allargato su Roma, e il padre lo riporta naturalmente a quelli che sono i suoi doveri di figlio. Ora qua mi stanno dicendo, Nicolizza, facendo gli spoiler, una minchia, scusate, è andata in onda ieri sera, è stata trasmessa, siete persi la prima, poi per le repliche devo parlarne, è molto importante anche capire cosa accade qualcosa di fondamentale, capito? Un figlio alla fine diventa il mandante dell'assassino del padre per avere il cambio generazionale necessario. Su questo vorrei sentire cosa ne pensa Simone Di Meo, giornalista e scrittore che ha scritto vari libri sulla camorra. Ecco, è percepibile che un figlio faccia uccidere il padre, il figlio di un boss per prendere il posto del padre lo faccia uccidere? Ma si può immaginare in un'opera appunto di fantasia, ma non è mai accaduto. Non è assolutamente immaginabile, ipotizzabile una eventualità di questo genere. Ci sono persone che sono all'ergastolo per aver vendicato appunto l'omicidio ad opera di altri, i propri genitori, che ci sia questo rapporto scontro tra il complesso di Crono e il complesso di Edipo, tra Jenny e il padre, fa parte ovviamente di una configurazione narrativa che arricchisce sicuramente il pathos. Sì, ci hanno messo molto conflitto, invidia del pene, via dicendo, perché c'è sempre il figlio che dice al padre non mi ha mai considerato, il padre lo tratta proprio come un animale, ha quasi invidia del figlio, non vuole che cresca, rimanga l'eterno bambinone. Questo diciamo è un elemento naturalmente di fantasia. Sentiamo però Giacomo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Io volevo intervenire riguardo non tanto la struttura della serie, nel senso del personaggio, ambientazione, perché su quello credo sia stata costruita molto, molto, molto bene, ma quello molto brevemente, quello che accennavate un po' già all'inizio, riguardante un po' l'influenza della serie a livello sociale, insomma. Ho letto un interessante articolo del professor Alessandro Orsini pochi giorni fa sul Messaggero, che è proprio sulla serie Gomorra. Lei che ne pensa, però? Che ne pensa lei del professore? Mi fa piacere sapere che ne pensa lei come studioso di comunicazione e criminologia. Sì, guardi, no, riparto da questo, perché lui accennava, appunto, il professore accennava che non, in realtà, chi vede Gomorra o chi vede Carabiniere non è detto poi che diventi o un carabiniere o un camorrista. Beh, questo è chiaro. Questo sì, però io credo che oggi come oggi, insomma, poi soprattutto con la rete ci sia una forte influenza, insomma, a livello sociale, soprattutto per il periodo. L'influenza è più circoscritta al set concreto, reale, dove si svolge l'azione. Non credo che possa che un ragazzino di Bergamo imiti Savastano, ma un ragazzino che magari abita a Scampia potrebbe sentirsi esaltato dall'idea che questi personaggi siano entrati nella fiction. Forse questo semmai il problema. Però... Beh, sì, forse chi abita a Bergamo, non essendo, diciamo, fortunatamente magari protagonista di quegli eventi, può essere mosso, insomma, da una forte, secondo me, da una forte curiosità e la continua, insomma, trasmissione di situazioni violente che sono costruite praticamente, sono molto realistiche, insomma, possono, insomma, incuriosire e avvicinare, secondo me, anche un giovane a questi tipi di comportamenti, insomma, a provare almeno questi tipi di comportamenti. Ma la violenza, vede, ormai è talmente cruda, è talmente fredda, sembra un film di Tarantino dei migliori, non c'è più nemmeno il compiacimento, è asettica, è chirurgica, ammazzano, non c'è nemmeno non ci sono nemmeno schizzi di sangue, si vede solo raramente, ogni tanto la gente muore ammazzata come facesse uno starnuto. Questo forse è semmai, esatto, la novità. Sì, esatto. Antonio, sentiamo Antonio. Grazie. Antonio. Salve, buongiorno. Sì. Siamo dalla provincia di Caserta. Sì. Al di là della fiction, la domanda che mi sono sempre posto, questo fiume di denaro che circola ogni giorno, che fine fa? Visto che noi abbiamo il taglione dei 1000 euro contanti. Sembra una domanda. Comunque, guarda, faccio rispondere a Simone Di Meo. Dove va a finire questo denaro? Va a finire nelle banche, nelle imprese, chi costruisce, chi acquista, in qualche maniera andrà a finire. Simone Di Meo chiede all'ascoltatore dove va a finire questo fiume di denaro che vediamo circolare. A un certo punto c'è un episodio che ho trovato fantastico. A casa del vecchio boss ci sono una decina di persone che contano i soldi, li contano con la velocità di un contabile di sportello bancario. Non possono, proprio una velocità, sembra quasi nel caveau di una banca, in realtà sono a casa di un boss. Sì, questo è un fiume carsico che poi sfocia e va a alimentare attività economiche, imprese, aziende, acquisto di titoli, diventa anche tutto riciclato, quello... qualcuno lavora anche sul riciclaggio, perché certo, ma soprattutto quello si pulisce. Quella è esattamente, è la foce più importante, no? Quello è il filtro che poi immette nel mare magnum del riciclaggio. Antonio, sentiamo Antonio. Antonio, l'ha chiesto Massimo. Massimo. Eccomi, buongiorno. Saluto lei e tutti gli ascoltatori. Quello che mi aveva colpito di Gomorra era proprio il concetto del potere, no? Lei prima, ora io non riesco a, come lei diceva bene, a poter sentire tutte le varie. L'ho saputo oggi, pensi quanto sono arrabbiato io. Quindi mi scuso se dovessi. No, io lavoro proprio sulla condivisione dei pareri degli ascoltatori, ma accorgo che non si sentono fra di loro. Comunque, mi hanno detto stanno rimediando. Sì, allora mi dica il suo punto di vista. Chiudiamo. Il mio punto di vista è legato proprio al concetto di potere che è emerso in questa serie di Gomorra, no? Da una parte il potere circoscritto, diciamo, al proprio habitat cosiddetto marginale, no? Mm-hmm. Fuori dal quale non vi è alcuna... Siamo in sigla, concluda. E l'altro? All'interno del quale non vi è nessun tipo di riscatto di carattere sociale, no? L'altro è il potere che viene rappresentato in modo freddo, capace di oltrepassare ogni concetto etico o morale, ma addirittura affettivo. Vabbè, questo è chiaro, siamo in un mondo senza Dio, senza pietà, dove esiste soltanto il Dio denaro. Alla prossima!